È il cosiddetto patto Gentiloni, lo sdoganamento dei cattolici nella politica italiana. Un patto che segna la fine della stagione politica dei blocchi popolari, ancora lo storico Fulvio Conti. La vera minaccia in quel momento per il mondo cattolico era che andasse al potere a livello nazionale quell'esperienza dei blocchi popolari e quindi quelle formazioni fortemente orientate in senso laico anticlericale che avevano governato le città italiane. E per questo fu concepita l'operazione Patto Gentiloni. Alle elezioni comunali del 1914 Ernesto Nathan si presenta dimissionario. Appoggiate dai cattolici liberali di Giolitti, le forze clericali tornano prepotentemente alla guida della città. Il nuovo sindaco è il nobile Prospero Colonna, che passa la storia come l'anti-Nathan. Ascoltiamo Marco De Nicolò. Nathan non si dimette perché viene messo in minoranza, attenzione. Nathan gode di una maggioranza in consiglio. È una maggioranza che non è tanto trascurabile. Cioè la maggioranza è solida, ma è il fatto che Nathan sa cogliere che il messaggio politico che viene dalla nazione significa che la sua esperienza è comunque conclusa. Nel 1914, alle porte del primo conflitto mondiale, Nathan è fuori dai giochi e con lui la generazione che aveva creduto di poter dare a Roma e al paese un futuro diverso, ancora Alessandro Mola. Si può dire in modo fondato che sia Nathan sia Giolitti abbiano espresso un grande disegno politico, quello della convergenza tra il pensiero democratico, tra i laici e il socialismo moderato. Se questa alleanza fosse durata e si fosse affermata, noi avremmo avuto sicuramente un Novecento tutto all'insegna del riformismo, tutto all'insegna del progresso civile e non avremmo conosciuto un periodo di dittatura. Ernesto Nathan muore a Roma il 9 aprile del 1921. Lascia un paese diverso da quello che ha contribuito a costruire. Di lì a poco la massoneria si appresta a marciare al fianco di Mussolini. Gli ideali democratici del Risorgimento e la grande Italia di Vittorio Emanuele III sono ormai solo un lontano ricordo. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it. Thank you.